cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata dedicata inevitabilmente al premio Strega che è stato assegnato giovedì sera a Roma. È stato un trionfo, per quanto annunciato, per Nicola La Gioia, autore del romanzo La Ferocia, pubblicato da Einaudi. Si è aggiudicato ben 145 voti della giuria, circa 460 persone complessivamente, perché ci sono i 400 amici della domenica, che sono esponenti del mondo della cultura, che vengono affiancati da 60 lettori scelti dalle librerie. È evidente che il gruppo Mondadori, di cui Einaudi appunto fa parte, ha voluto concentrare i suoi voti sul candidato Einaudi, sacrificando così Fabio Genovesi, autore di Chi manda le onde, pubblicato a marchio Mondadori. In qualunque caso, Fabio Genovesi aveva già vinto e meritatamente lo Strega Giovani, quello che viene votato dagli studenti. Non è bastata insomma la candidatura di Elena Ferrante. Quest'anno si sperava che potesse un po' sparigliare le carte. Elena Ferrante è la famosa scrittrice dall'identità misteriosa che viene molto amata dal pubblico e dalla critica. Si pensava che potesse un po' interrompere insomma il duopolio, la catena che da sempre vede lo Strega assegnato quasi esclusivamente ai gruppi Mondadori o Rizzoli. Insomma, così non è stato. Quest'anno il gruppo RCS aveva puntato sul marchio Bompiani con la raccolta di racconti La sposa di Mauro Kovacic, che è arrivato secondo a grande distanza. Però infine l'ultimo della cinquina era il dantista Sant'Agata, Marco Sant'Agata, autore di Come donna innamorata, pubblicato da Guanda. Ma veniamo alla Ferocia, insomma il romanzo che ha vinto lo Strega 2015. È un romanzo intenso, un romanzo tosto, insomma potremmo definirlo. Racconta la storia di un palazzinaro a Bari, quindi tangenti, corruzione. La figlia viene trovata morta, si pensa ad un suicidio, ma il fratello insomma vuole indagare, vuole andare a fondo perché non è convinto di questo, e così finisce per scoperchiare veramente tanti aspetti oscuri della città e della vita della sua famiglia. Così La Gioia ci parlava del suo protagonista Vittorio Salvemini nell'intervista che avevamo realizzato poco dopo l'uscita del romanzo. Vittorio, ecco, se fosse un animale sarebbe uno squalo, un pesce cane. Vittorio, appunto, come tu giustamente hai detto, è un palazzinaro, è il capo famiglia di una famiglia in cui la ricchezza, i soldi e la corruzione marciano di pari passo. Vittorio non si ferma davanti a niente. Se deve far incendiare un pezzo di macchia mediterranea per costruire un villaggio turistico, lo fa, non si fa proprio nessuno scrupolo. Ecco, se fosse vissuto 30 anni prima, ecco, sarebbe potuto essere il papà di Gasman in C'eravamo tanto amati, che era il papà, il suocero di Gasman in C'eravamo tanto amati, che era Aldo Fabrizi, che era un terribile palazzinaro romano. Questo è un terribile palazzinaro barese. Esattamente. Però ci tengo a dire una cosa: il fatto di raccontare da scrittore un personaggio così negativo come Vittorio è diverso che farlo da intellettuale. Cioè, da intellettuale io lo condannerei, uno come Vittorio. Da scrittore, se lo devo raccontare, diventa mio fratello. Cioè, io per rendere credibile un personaggio orrendo come Vittorio devo tirare fuori il Vittorio che è in me. Gli altri personaggi importanti e fondamentali sono, dicevamo, Clara e Michele. Sì. Clara, lo diciamo, tanto succede nelle prime pagine, muore. Insomma, questa donna bella, insomma affascinante, da cui molti rimangono colpiti, viene diciamo investita sulla statale Bari-Taranto, però poi viene ritrovata in un autosilo. Michele è il suo fratellastro che cercherà, diciamo, di indagare quali sono le vere cause della morte, perché inizialmente si pensa a un suicidio, ma lui non è così convinto. Ecco, partiamo innanzitutto da loro due. Che rapporto c'è? Perché quasi morboso l'attaccamento, sì, fra Clara e Michele. Sì, è quasi a pochi passi dall'incesto, potrebbe essere, a seconda delle interpretazioni. E loro sono un po', come dire, in una famiglia del genere, in questa famiglia qui che abbiamo raccontato, che abbiamo cominciato a raccontare, sarebbero i figli sbagliati, sarebbero le serpi in seno per cui però il lettore potrebbe legittimamente tifare. Cioè, sono questi figli che si rendono conto, ecco, Clara e Michele sono fratellastri, appunto. Michele è figlio di una relazione illegittima, ecco, lui sarebbe stato un bastardo, in un romanzo dell'Ottocento l'avremmo chiamato così, di suo padre. Loro si rendono conto, da ragazzini, che stanno crescendo in una famiglia abbastanza orrenda e

imprenditori, manager, banchieri, docenti universitari, personalità del settore pubblico e di quello privato. Negli incontri di Gianfranco Fabi, ogni domenica alle 22, i protagonisti della società raccontano la loro vita, le loro esperienze, i loro valori. Sono Gianfranco Fabi e ogni domenica condurrò un confronto aperto, sincero e costruttivo per andare oltre la cronaca quotidiana, per scoprire i segreti, gli interessi, le ambizioni delle persone che guidano piccole e grandi imprese, che hanno grandi progetti e quindi grandi responsabilità. Incontri di Gianfranco Fabi, domenica alle 22 su Radio 24. Il cacciatore di libri. Parliamo ora dell'ultimo romanzo della giapponese Banana Yoshimoto, ultimo in Italia, anche se in Giappone in realtà era stato pubblicato una decina di anni fa. Si intitola Il Lago, pubblicato come tutti gli altri da Feltrinelli con la traduzione di Gala Maria Follaco. La Yoshimoto è stata subito amata dai lettori italiani, diciamo fin dal suo primo romanzo Kitchen, ormai sono passati quasi 30 anni, che era diventato anche insomma molto famoso, un bestseller in tutto il mondo. Protagoniste di questo nuovo romanzo sono una donna, Ciro, che ha appena perso la madre e prova una profonda solitudine, cerca affetto in un ragazzo completamente diverso da lei per età e modo di pensare, che si chiama Nakajima e che a sua volta, come dire, viene da un profondo trauma. Loro dormono insieme tenendosi la mano, niente di più, eppure questo rapporto è intensissimo, diventa fondamentale per loro. In questo nuovo libro, Il Lago, Banana Yoshimoto torna sui temi a lei cari, insomma l'amore, la morte, il dolore, la consolazione. E ne abbiamo parlato proprio con lei nel nostro incontro a Milano. La Yoshimoto infatti è venuta in Italia per Expo. Ha scritto proprio uno dei racconti sul tema del cibo come nutrimento per il corpo e per la mente che compongono il volume Novel of the World, pubblicato dalla Fondazione Mondadori. Sono una serie di racconti, sono 104 scrittrici di tutto il mondo e il volume si può scaricare gratuitamente dal sito di Women for Expo. Ma sentiamo appunto la Yoshimoto. Più che la morte, uno dei temi fondamentali, o direi il tema fondamentale della mia opera, è la consolazione. E ovviamente il trauma più difficile da superare, quello per il quale è più difficile trovare una consolazione, è la morte di una persona cara. Per questo motivo la morte compare molto spesso nei miei libri. Nei suoi libri appare molto spesso appunto la morte, ma ci sono spesso personaggi che subiscono un trauma psicologico e quindi devono cercare di superarlo. Come mai a lei piace indagare appunto tanto, così tanto negli aspetti più turbolenti dell'animo umano? Una delle attività che ho sempre amato di più nella mia vita è stata l'osservazione, osservare le persone, guardarle a fondo. Prendere le persone nel momento in cui soffrono fornisce un'occasione importante, preziosa di osservazione. Ci sono tanti dolori quante persone, ci sono tante forme di consolazione quanti sono i dolori che si provano, e per questo motivo cogliere le persone nel momento in cui stanno soffrendo, in cui stanno vivendo un trauma e stanno cercando di superarlo, mi dà modo anche di scoprire la loro individualità, le loro caratteristiche più intime e più personali. Lei è una grande osservatrice appunto dell'umanità in generale, proprio dell'animo umano, in quanto scrittrice, in quanto insomma lei stessa ha detto che va a ricercare proprio nella psiche delle persone. Com'è che le nasce l'idea di un personaggio? In primo luogo io scelgo il tema del libro. Una volta che ho scelto il tema, che nel caso per esempio del lago è una persona, Nakajima, che da bambino ha subito un trauma tale da essere portato quasi al suicidio e che però ciò nonostante è riuscito ad andare avanti, è riuscito a non portarlo a termine, quindi a proseguire la propria vita, in questo caso mi sono immaginata, come faccio sempre, come sia parlare con questo personaggio, che cosa questo personaggio possa esprimere di sé, e quindi attraverso la rappresentazione anche nei dialoghi delle cose che dice cerco di costruire appunto il personaggio stesso. E per fare questo mi sono immaginata che questo personaggio, che questo Nakajima, venisse da me e mi raccontasse la sua storia. Senza svelare troppo del romanzo, possiamo dire che in questo romanzo a un certo punto compare il fenomeno delle sette religiose, anche dei rapimenti che avevano compiuto. Perché ha scelto proprio questo tema per questo romanzo? Nel periodo in cui ho scritto questo libro, uno dei degli argomenti principali dei notiziari giapponesi erano i rapimenti legati al problema della Corea del Nord. Quindi capitava spesso di ascoltare in televisione interviste alle famiglie di persone che erano state rapite, che avevano subito questi rapimenti. Per questo motivo ho provato un forte interesse verso questo tema. Nello stesso periodo si parlava anche molto di bambini cresciuti in sette religiose, e quindi questi due temi, che erano temi di cronaca, che erano all'ordine del giorno all'epoca, comparivano nei notiziari, nei quotidiani, e verso i quali provavo interesse, li ho ripresi e li ho resi in questa forma, forse un po' più vaga, però li ho resi in questa forma all'interno del mio romanzo. Banana Yoshimoto è famosa nel mondo proprio per descrivere spesso la vita interiore dei giovani giapponesi. Dal suo primo romanzo, quindi stiamo parlando dal 1988 ad oggi, sono più di 20 anni. Che cambiamento? Quali sono i cambiamenti principali che ha notato? Ho l'impressione che col passare del tempo i giovani giapponesi stiano diventando più tra virgolette conservatori. Questo significa che manifestano una scarsa propensione al cambiamento, che non si prendono dei rischi, che non coltivano, che non nutrono grosse speranze, sembrano sempre rinunciatari, sembrano sempre rassegnati a qualcosa. E questo libro l'ho scritto diversi anni fa in Giappone, non era ancora lo stato attuale. Ciò nonostante, credo che ancora adesso, che lo riprendo in un periodo diverso e guardo lo stato attuale dei giovani, credo che ancora adesso ci sia molto da fare per i giovani giapponesi. Dovremmo impegnarci di più anche per loro. Nel suo primo romanzo, che è stato un po' un bestseller, il romanzo più conosciuto in tutto il mondo, Kitchen, la protagonista aveva un insolito, un particolare rapporto con il cibo. Lei è qui adesso in Italia per Expo e ha scritto un racconto che ha a che fare con il cibo. Che tipo di messaggio ha voluto mandare con questo racconto, e qual è il suo sentimento per questa partecipazione ad Expo, Women's for Expo? Il cibo è una fonte diretta di energia per la persona che lo consuma, innanzitutto dal punto di vista strettamente scientifico. Inoltre il cibo può diventare una medicina, può avere un effetto curativo, e credo anche che il cibo possa avere un effetto consolatorio sulle persone. E per questo motivo a me farebbe piacere che attraverso il testo che ho scritto alcune persone riuscissero a ottenere anche un po' di questa consolazione, anche un po' di questo nutrimento appunto per l'anima e non solo per il corpo. Inoltre credo che in questo contesto particolare in cui io partecipo a Expo, quindi nel Women for Expo, mi piacerebbe parlare in modo particolare sia ai giovani che diventano adulti e quindi hanno bisogno di nutrirsi nel corpo e nell'anima per diventarlo, e anche in particolare alle donne che diventeranno madri e che per questo motivo hanno bisogno ancora di più di nutrire sia il corpo che l'anima. Ma che rapporto ha Banana Yoshimoto con il cibo? Anche per lei ha un aspetto consolatorio, per esempio? anche per me il cibo è una medicina. Per esempio, quando sto male mi rendo conto immediatamente se qualcosa mi fa bene o mi fa male. Se ho preso il raffreddore e mangio la carne, per esempio, non mi sento peggio. O magari penso di dover mangiare la verdura, però poi se mangio una verdura cruda mi sento male comunque. E quindi questo mi fa capire che si può avere un rapporto veramente molto diretto con l'alimentazione. Noi capiamo immediatamente se qualcosa ci fa bene o ci fa male. E questo è un aspetto a cui io dedico veramente molta attenzione. Quindi anche per me il cibo è una medicina e anche per me è qualcosa di molto molto importante. E questa era Banana Yoshimoto, ora in libreria con Il Lago, pubblicato da Feltrinelli. Prima di chiudere, tempo di festival, vi ricordo il prossimo appuntamento, che è a Polignano, provincia di Bari, da mercoledì 8 a lunedì 13 luglio con Il Libro Possibile. È un festival bello, divertente, si svolge proprio nelle piazze la sera, naturalmente, e ci sono dei nomi della letteratura impegnata, ma anche di quella più leggera, insomma, personaggi dello spettacolo accanto a saggisti. Ci sono incontri, reading, spettacoli teatrali, attualità, politica, economia. Vi faccio così solo qualche nome: lo scrittore Luca Bianchini, Pietrangelo Buttafuoco, Aldo Cazzullo, Aldo Nove, Ferzan Özpetek in veste di scrittore e anche regista, Lidia Ravera, Roberto Vecchioni, Dario Bergassola. Ci sarà anche il segretario della CGIL, Susanna Camusso. Vi ricordo l'appuntamento con Il Libro Possibile Festival, la 14ª edizione, a Polignano a Mare, provincia di Bari, da mercoledì 8 a lunedì 13 luglio. È tutto per questa puntata, grazie in regia a Peter Bescapè. Come sempre vi ricordo che trovate la puntata in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.